Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Aveva ragione maestro Manca? Aveva ragione maestro Fadda? Se la mettessimo in termini di pedagogia, sarei tentato di dire che maestro Manca precorreva sotto l'impulso del vizio la pedagogia di oggi, che mette i maestri al posto degli scolari e gli scolari al posto dei maestri, solo che lo fa con parole difficili. Più giusto è forse che la pedagogia ha detronizzato maestro Fadda senza mettere al suo posto nessun maestro Manca, perché maestro Manca era un fenomeno di natura e la natura non si fa con le teorie. Del resto, ai funerali di maestro Manca c'era molta più gente che ai funerali di maestro Fadda. Io li ho visti entrambi e anche questo conta. Il quale maestro Fadda, quando rientrò nella sua classe, appariva pacato nella sua barba rossiccia, un po' perché lo era, un po' per il tabacco da fiuto di cui era ghiottissimo. Ma dal modo come estrasse la tabacchiera e dalla grande falcata della mano per prendere il pizzico, i ragazzi capivano che era internamente agitato, o almeno pensoso. Egli ripeteva maestro mossa nella certezza del suo dovere, solo che aveva una maggiore dignità di comportamento e quasi un certo sussiego, perché insegnava nelle classi superiori e aveva sposato una moglie con qualche bene al sole. I ragazzi gli volevano bene perché erano più grandi e si sentivano dal suo parlare studiato introdurre alla vita, mentre i primi 3 anni erano stati uno scherzo. Fra tutti e 3, Mossa, Manca e Fadda, sommavano almeno 160 anni, il che per quei tempi era una cosa enorme, e da almeno 100 andavano avanti nelle aule tristi del convento, senza accorgersi che il mondo andava avanti anche lui. Se ne accorsero o ne ebbero un vago sentore il giorno che comparve nella vecchia casa dei frati un altro maestro, giovane ma non giovanissimo, perché veniva dalle scuole dei paesi dove aveva già insegnato per alcuni anni. Era sardo, ma non aveva un nome sardo. Si chiamava Marinotti, era piccolo e anche brutto e destò qualche sospetto specialmente per 2 cose: che gli furono assegnate di colpo le classi superiori e fece subito lega col più screditato dei maestri, che era Ricciotti Bellisai. Costui si professava nobile e addirittura parente di Don Sebastiano, ed è possibile che lo fosse. Quel che è certo è che suo padre, Don Missente, era stato molto ricco. La casa di Loreneddu, affittata ai carabinieri, era sua. Isporosile, la calda e feconda tenuta nella valle tra il monte e Nuoro, era sua. Molte tanche della serra e molti aranceti di Orosei e chissà che cos'altro. E se Don Missente avesse continuato a passare la sua vita ad accarezzarsi i lunghi favoriti che lo distinguevano dai suoi pari, tutto sarebbe andato bene. Il guaio è che i danari hanno il difetto di moltiplicarsi nella testa di chi li ha, specialmente se non li ha guadagnati soldo per soldo come Don Sebastiano. E così Don Missente si divertiva ad accendere nel caffè Tettamanzi il lungo sigaro Virginia, il solo che uno come lui potesse fumare, con un biglietto da 100 di allora. E una notte si giocò alle carte per dispetto Isporosile, che infatti oggi è di Giovanni Maria Musiu, il padrone del caffè. Questo è almeno quello che si diceva. Certo è che in poco tempo Loreneddu passò nelle mani di Don Sebastiano, che per la verità non lo voleva, fedele al principio che non bisogna approfittare delle disgrazie altrui, e così fu disperso tutto il resto. Quando Don Missente non ebbe più nulla, parve finalmente placato e continuò ad accarezzarsi i suoi favoriti senza avvicinarsi più al caffè, dove nessuno s'accorse della sua sparizione. Gli restava questo rejeton, per dire alla francese, di Don Ricciotti, che manteneva se stesso e il padre e la famiglia col suo diploma da maestro. Ma come il padre era lieve e sorridente, egli era cupo e torvo, con le guance cascanti e bluastre, e non degnava i Mossa, i Manca, i Fadda di un saluto. Egli si riteneva sempre padrone delle sostanze che il padre aveva dissipato, e se la legge non era con lui, egli era contro la legge o contro chi profittava della legge per negargli il suo. Né si peritava di dirlo a scuola, dove c'erano anche i figli degli usurpatori, che però non capivano niente. Per questo, quando apparve quel maestro Marinotti che esponeva certe nuove idee e parlava di identità di pensiero e azione, di educazione come lo stesso atto in cui l'io si fa, di sintesi di scolaro e maestro e altre difficili cose, Don Ricciotti fiutò subito nel nuovo venuto un alleato. I tre vecchi maestri tennero più di un conciliabolo. «Che cosa vuol dire questo linguaggio?» domandava maestro Fadda, che per essere di quarta e quinta pensava di essere più vicino degli altri alla scienza. «Possibile che abbiamo sbagliato tutto», diceva umilmente maestro Mossa. «A me sembra che sia quello che sempre abbiamo fatto», rispondeva nel momentaneo schiarirsi della sua intelligenza maestro Manca. Maestro Fadda aveva voglia di rinfacciargli le sue sbornie come la colpa di tutto, tanto più che gli pareva di aver capito che nelle nuove teorie il direttore didattico veniva scisso dal maestro ed egli perdeva questo piccolo segno di distinzione di fronte ai colleghi. In realtà, tutti e tre avevano l'oscuro presagio del proprio tramonto. Don Ricciotti, invece, sapeva che dietro le parole incomprensibili si nasconde sempre una volontà di potenza, e di questo egli aveva bisogno, non di quelle tre mummie che si facevano bambini con i bambini. Perciò assecondò immediatamente le mire del maestrucolo, si mise a parlare come lui e trovò giusto che egli fosse nominato direttore didattico. Prese persino, vincendo la pinguedine, un'andatura sfidante, come se la scuola fosse diventata sua. Forse quelle parole incomprensibili erano la via che gli avrebbe consentito di farsi restituire da Don Sebastiano la casa di Loreneddu. Naturalmente, il nuovo maestro era un buon uomo. E se avesse sospettato che Don Ricciotti voleva servirsi della sua filosofia per tenebrosi fini, lo avrebbe sfuggito come la peste. La sua profonda aspirazione era quella di diventare un giorno ispettore scolastico, una carica istituita di recente col passaggio delle scuole dai comuni allo Stato, che gli avrebbe dato lo scettro sui vecchi maestri e maestre del circondario. Del resto si mostrava affabile, anche se un po' riservato, ed essi apparivano rassicurati. Maestro Manca arrivò al punto che una sera, aveva bevuto più del solito, lo infilò tra i suoi santi in una di quelle laudi che inventava accompagnandosi con la chitarra, e subito diventavano patrimonio comune di tutti gli avvinazzati, i quali le facevano salire al cielo nei cori notturni, su dalle strade abbandonate. Il nuovo maestro aveva accettato la beffa per tante ragioni. Primo, perché era sardo e sapeva tacere. Poi, perché la beffa, se non è cattiva, dà sempre un'utile popolarità. E infine, perché aveva intuito che maestro Manca, sotto quel vizio che lo rodeva, era più intelligente di lui e il vizio lo rendeva innocuo. Il primo segno che qualcosa cambiava o era cambiato nel mondo si ebbe una mattina quando maestro Mossa, rotolando per il selciato con la frotta dei ragazzini che lo seguivano, si accorse che il suono della campanina del convento non accompagnava e quasi ritmava i suoi passi. Pensò che quel poltrone di zio Longo si fosse svegliato tardi, sebbene ci tenesse ad aprire per tempo la scuola con la grossa chiave che la sera si portava a casa, ma provò ugualmente una stretta al cuore. Gli parve che un grande silenzio si diffondesse per la città e che tutti si dovessero fermare, come in quelle bancarelle che figurano tutti i mestieri quando la carica finisce. Al convento trovò zio Longo ben sveglio, con la faccia nera come la pece e le vene del collo che volevano spezzarsi. «E la campana?» chiese maestro Mossa. «Ha detto che da oggi non si suona più». Non occorreva domandare chi l'avesse detto. Nell'atrio trovò maestro Fadda e maestro Manca che parlavano a voce bassa. «Dobbiamo ricorrere», diceva maestro Fadda. «Il direttore didattico può sorvegliare l'andamento della scuola, non mutare le cose». «E a chi ricorri?» rispondeva maestro Manca, che già meditava una delle sue vendette poetiche. Maestro Mossa stava per dire che egli sarebbe sceso tutte le mattine a suonare la campana, quando passò vicino a loro don Ricciotti senza neppure guardarli, ed essi capirono che non c'era nulla da fare. La campana era morta per sempre. Non era una cosa da poco. La campanella del convento non aveva niente a che fare con le campane di Santa Maria. Queste, nel loro linguaggio, erano una voce di comando, o che chiamassero i nuoresi, in verità poco chiesastici, al precetto domenicale, o spedissero i morti al cimitero, o annunciassero che Cristo era risorto, o che il vescovo aveva varcato la soglia dell'episcopio per recarsi in processione al pontificale. La campana del convento non voleva nulla. Essa aveva una voce, tan, tan, tan, che scaturiva dalle lunghe bracciate di zio Longo, come ieri da quelle di qualche frate o converso, ancora mezzo addormentato, seppure non suonava da sola, dopo tanti anni. Ma a questa voce si arrampicava su per la lunga via dei giardinetti, dove incontrava i ragazzi che scendevano saltellando al convento, penetrava nel corso e nelle vie nascoste, si librava nel cielo tersissimo di nuoro. Era una delle due voci di nuoro. L'altra era il rullo del tamburo di zio Dionisi, il banditore municipale, ed era la voce serale, come quella della campana era la voce mattutina. Durdum, durdum, durdum. Zio Dionisi usciva verso il tramonto, quando le strade e le case si riscuotevano dal colpo di sole, col tamburo che gli pendeva sul ventre da una cinghia consunta, per annunziare che nel celliere di Mucubrirde era arrivato vino d'oliena a 20 centesimi al litro, o in casa di Peppedda e Maria Iubanna era sceso un forestiere che comprava pelli di volpe, o che al cinema Olimpia c'era un programma nuovo. Qualche volta i bandi erano tanti che zio Dionisi tirava fuori dalle tasche il testo scritto in sardo e ogni bando era preceduto da un rullo che faceva stare le donne a corse sulla soglia col cuore sospeso perché pareva che zio Dionisi si addormentasse sul tamburo. Queste erano le due voci di nuoro e ora una di esse si era spenta per sempre. Presto anche l'altra l'avrebbe seguita perché zio Dionisi era vecchio e non sarebbe stato facile trovargli un successore. Così Nuoro sarebbe rimasta muta, come qualunque città, come qualunque borgo, e i nuoresi non si sarebbero più riconosciuti in queste piccole cose senza importanza, ma che erano il segno della misteriosa comunione che si stabilisce tra gli uomini che vivono sotto uno stesso cielo. Adesso, per sapere se era l'ora, ciascuno avrebbe guardato il suo orologio, come del resto era naturale. Tutta questa amarezza avevano nel fondo dell'animo i vecchi maestri, anche se non sapevano tradurla in parole. Ma in maestro Mossa c'era un altro sentimento che egli non avrebbe osato manifestare ai colleghi, perché altrimenti avrebbero finito col litigare tra loro. Egli, come abbiamo detto, era religiosissimo, e quella campana ferma non era la voce di Nuoro, era la voce di Dio che si spegneva. Non era una fissazione, non era la superstizione di un bigotto. Maestro Mossa non era un bigotto. Si era lasciato accompagnare dal Signore tutta la vita e l'aveva accompagnato lui nelle sue povere opere. E la preghiera che prima della lezione recitava coi ragazzi era una specie di accordo che ogni giorno stabiliva con lui. Pregare lui va bene, ma soprattutto far pregare quei fanciulli che venivano per un attimo almeno liberati dal male. Tutto era andato sempre liscio, ma ora, da qualche tempo, egli aveva osservato che al mattino sostavano davanti all'ex chiesa o all'ex refettorio che era la sua aula, dei giovani prima isolati, poi a gruppi sempre più fitti, prima silenziosi, poi sempre più rumorosi, che facevano il verso alle sue preghiere. Erano gli adulti delle normali, i maestri che sarebbero succeduti a lui, quelli del piano di sopra. Aveva tardato a capire, anche perché non sapeva quel che avveniva nel mondo mentre egli faceva fare il segno della croce ai bambini di Nuoro. Ma poi avevano cominciato a volare dei fischi o rumori anche più osceni e i ragazzi si erano spaventati. Perché? Perché? Tutta la vita aveva fatto questo, ma anche tutta la vita aveva sentito la voce di quella campana che lo aveva guidato al convento. E ora la fune della campana penzolava triste sopra il panchetto di zio Longo come la corda di un impiccato. Quel vescovo Roic che, fuggendo al solleone e alle zanzare, aveva trasportato la sede vescovile sull'altopiano, nel luogo dove poi sorse Nuoro, sempre che le favole di canonico Fele siano vere, aveva senza volerlo impresso nei secoli il volto di una città santa al piccolo borgo. La chiesa di Santa Maria, con quella scritta latina che neppure i preti capivano, comandava dall'alto del colle, un campanile a destra, un campanile a sinistra, simile a un'immensa lumaca. E le campane non erano due campane qualunque, perché avevano un nome. Una si chiamava Lionzedda, l'altra Lollobedda, e parlavano due linguaggi diversi, a seconda dell'ufficio e anche dell'umore del campanaio. Si diceva e si pretendeva di riconoscere. Chischeddu, tale era il suo nome e vuol dire Franceschino, deve aver litigato col suo parroco, pensavano a San Pietro e a Seona, quando il suono di un interro era troppo frettoloso o qualche nota stonata. Chischeddu era uno di quei rottami che, non si sa per quale ragione, approdano nelle chiese e vengono ammessi da Dio o dal parroco a partecipare alla vita dello spirito come scaccini, sacristi o questuanti, o se hanno un po' di orecchio, era il caso di Chischeddu, come campanari. Respinti dal finito, essi sono attratti dall'infinito. Una chiesa vuota, un prete in veste muliebre, due braccia aperte in larghi gesti benedicenti. E lo servono dall'esterno, nelle piccole cose, nei piccoli uomini di cui anche l'infinito ha bisogno. Fermi sulla soglia, essi vivono il mistero più dei loro padroni. E bisognava vedere Pozzeddu, il sacrista delle grazie, quando dopo la questua svuotava la borsa col manico lungo sul tavolo della sagrestia. I nichelini correvano come matti sul legno tarlato, mandavano barbagli al filo di luce che penetrava dai vetri polverosi e ci scappava in mezzo anche qualche lira d'argento di cui Pozzeddu giurava di sapere la provenienza, sebbene non la dicesse al celebrante incuriosito. Quelle monetine erano il segno tangibile di Dio, il servizio che egli gli rendeva ogni giorno, ma specialmente la domenica, alla messa dei ricchi. Del resto, egli, restando ai margini, era più fedele del prete, e se lo aiutava ogni volta a infilarsi la cotta, era come se vestisse se stesso. Con gli anni non aveva smesso il rispetto untuoso, perché tra il prete e lui c'era la barriera dell'impossibile, ma al prete si era avvicinato sempre più, ne riceveva gli urli e le confidenze, ne misurava gli sbadigli e non c'era messa o funzione che non sarebbe stato capace di celebrare in perfetto latino, sebbene non sapesse né leggere né scrivere. Se avesse avuto meno rispetto di se stesso, avrebbe accettato di giocare alle carte col prete in qualche sera estiva, quando al fresco della chiesa deserta si aspettava che il sole si decidesse finalmente ad andarsene. Ma lasciamo stare Pozzeddu, che non c'entra in questo momento, perché siamo nella chiesa di Santa Maria, attorno a Chischeddu, che regolava con le campane la vita e la morte del borgo, dall'ave argentina del mattino all'ave spiegata della sera, che faceva alzare la berretta ai contadini che tornavano sui loro carri e affrettare il passo ai ragazzi di buona famiglia che smettevano di giocare nella piazzetta. Anche Don Sebastiano si levava dal panchetto della farmacia Piga, che non aveva nulla a che fare col Piga di Don Pasqualino, e risaliva il breve tratto selciato verso la casa, dove lo attendeva lo studio, il giornale, la lampada a petrolio. La vita a un certo punto deve finire, almeno per la gente per bene. Ma la grande distesa delle campane, nella quale Chischeddu non sbagliava una nota, neppure se il parroco gliel'avesse fatta grossa pochi minuti prima, non era quella del sabato santo alle 10 in punto del mattino, quando risorgeva Gesù e tutti stavano ad aspettare col naso in alto, ma quella che annunciava l'uscita del vescovo dall'episcopio con la corte dei canonici in ermellino per la celebrazione dei pontificali. Santa Maria lo attendeva con le immense porte spalancate e l'arciprete da un lato, pronto a dare il là al coro dei seminaristi, macchia viola nello sfondo nero della chiesa. Il vescovo saliva con le scarpe ricamate e la lunghissima coda sostenuta da due diaconetti, la lieve erta ombreggiata di querce che separava o univa la cattedrale all'episcopio. E su quella teoria salmodiante si scatenava il gigantesco sonaglio delle campane di Chischeddu, che non veniva più dal campanile, ma dal cielo azzurro, da tutti i cieli azzurri dell'isola che si inarcavano sulla breve scena.